البلاد طردوا الأجداد. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا Buongiorno Palestina, iniziamo la trasmissione di oggi con una comunicazione importantissima che coinvolge tutti. Siamo ormai alla nona settimana dell'emergenza, emergenza da Covid-19. Siamo ancora tutti a casa, ma già si prevede l'avvento della fase 2 della pandemia, il ritorno alla normalità, la cosiddetta normalità. Però qualcosa è cambiato. In previsione di questa nuova fase vi vogliamo far ascoltare le importantissime raccomandazioni che ci pervengono direttamente dalla viva voce del nostro nuovo Presidente del Consiglio. Buon ascolto. Buona giornata a tutte e tutti, sono il vostro Presidente del Consiglio e vorrei comunicare con voi in questa giornata straordinaria del 25 aprile, in cui non soltanto l'Italia, ma l'Europa e il mondo si sono liberati dalla tragedia del nazifascismo e sono uscita da una guerra devastante e si è cercato di ricostruire. E noi in Italia abbiamo avuto la nostra Costituzione, una Costituzione che è basata sul diritto al lavoro, alla salute, sul ripudio della guerra, sulla lotta contro le ineguaglianze. È una grande Costituzione e dobbiamo tenercela in mente, ma anche praticarla. Quindi noi oggi affrontiamo una cosa che non è una guerra, è una cosa sconosciuta, è una cosa che non capiamo, non sappiamo da come arriva, come è arrivata, lo scopriranno gli scienziati, i medici, ma intanto noi dobbiamo affrontare una situazione complessa e difficile. E vi garantisco che essere Presidente del Consiglio in questo momento non è facile. La paura, il panico prende anche noi. La paura di non essere all'altezza della situazione. E forse all'inizio abbiamo commesso degli errori. Siamo stati inconsapevoli rispetto a questa immane tragedia che potrebbe essere il coronavirus. La storia, il mondo è passato attraverso diverse situazioni, fin dall'antica Grecia. E siamo usciti però con devastazioni e morti, ma anche capaci di costruire. E io penso che noi dobbiamo però imparare da questa vicenda, da questa tragedia, e cambiare. Riusciremo a cambiare, riusciremo a pensare e a innovare a una società diversa, dove non sia più il potere, il libero mercato a prevalere, ma sia invece l'interesse comune, l'interesse della salvaguardia dell'ambiente, l'interesse della salvaguardia della salute di tutti e tutti. Dobbiamo sperimentare forme nuove. Questo sistema che sembrava infallibile invece è fallito, ha mostrato le sue lacune. Non c'è sviluppo, non c'è benessere, la povertà cresce. Siamo rientrati dopo aver detto mai più guerre nelle guerre. Beh, usiamo questa nuova paura, questo nuovo immane tragedia per dire ce la faremo, dobbiamo però avere il coraggio di rompere appunto con una società basata sul profitto, una società basata sulle ineguaglianze. Ed è questo che voglio dire, possiamo farlo insieme, dobbiamo farlo insieme, dobbiamo riuscire a mostrare quello che l'Italia anche ha mostrato in questi periodi, la grande solidarietà e anche l'abnegazione del personale medico, di chi raccoglie l'immondizia, di tutti quelli che hanno contribuito a tenere viva in questo tempo la speranza di voi che siete rimasti a casa ed avete seguito le regole. È un grande momento questo, un momento per ripensare davvero a una società diversa, un momento in cui forse anche lo sviluppo economico deve essere diverso, dobbiamo cambiare anche questo, forse bisogna tornare a forme diverse nell'agricoltura e dobbiamo pensare che nell'agricoltura non ci possono essere persone che sfruttiamo senza neppure il diritto della cittadinanza o del permesso di soggiorno. Ce la faremo, ce la faremo. Avete ascoltato la voce di Luisa Morgantini, prestatasi ad un'intervista che ci auguriamo non impossibile, realizzata dal quotidiano Il Manifesto il 25 aprile. La trasmissione di oggi continua, tutta al femminile, con la rassegna stampa e subito dopo con due recensioni di libri a cura di Marisa. Il maestro di Gaza, di Rami Balawi e Alessandra Ravizza, un casuale ma fortunato incontro tra un maestro palestinese e una musicista italiana nella Palestina occupata. Seguirà, 50 anni dopo, 1967-2017, i territori palestinesi occupati e il fallimento della soluzione dei due stati, di Chiara Crociati e Michele Giorgio. Ora un breve intervallo musicale prima della rassegna stampa. Rassegna stampa della settimana 20-26 aprile. Michele Giorgio sul Manifesto scrive: Gantz, Bibi, nasce il governo di annessione. Con scaltrezza e emergenza coronavirus, Netanyahu realizza il capolavoro politico. Appena qualche settimana fa, il capo di Blu Bianco ripeteva che non avrebbe mai governato con Netanyahu, che definiva una minaccia alla democrazia. Lunedì 20, invece, Netanyahu e Benny Gantz hanno firmato l'accordo per la costituzione di un governo nazionale di emergenza che, dicono, avrà il compito di guidare Israele durante l'emergenza coronavirus. Ma gli obiettivi reali saranno soprattutto politici. La loro collaborazione è destinata a durare anni. Netanyahu sarà primo ministro per un anno e mezzo. Dopo toccherà a Gantz. L'accordo mette una pietra sopra al progetto di legge che avrebbe impedito la guida del governo a Netanyahu, che appunto il 24 maggio deve comparire in tribunale per corruzione. Ciò a cui il leader della destra però teneva più di ogni altra cosa è il via libera all'annessione a Israele delle terre palestinesi, prevista dal piano Trump, il famoso accordo del secolo. Ora si passa all'azione. A luglio Netanyahu sottoporrà a governo e Knesset l'approvazione dell'estensione della sovranità israeliana sulla Valle del Giordano e sugli insediamenti ebraici nella Cisgiordania occupata da Israele dal 1967. Ad avallare la soluzione trovata ieri e i programmi del futuro governo sono stati anche i laburisti Amir Peretz, che sarà ministro dell'economia, Etzkin Smuli, del Movimento degli Indignati, che diventerà ministro del welfare. Commenti dalla sinistra israeliana. Arez scrive: l'indiziato per corruzione Netanyahu e il ladro di voti Gantz formano un'alleanza tra due canaglie. Ebrei per la giustizia per i palestinesi invece pubblica una nota dal titolo Il buono, il cattivo, il brutto e il nefasto dell'accordo Netanyahu-Gantz. lo sputo arma di Israele. Diffondere il coronavirus nell'occupazione è un articolo di Rami Barud dal Middle East Monitor. Se sputare addosso a qualcuno è un insulto universale, sputare sui palestinesi è una storia completamente diversa. Ora che sanno che il coronavirus mortale può essere trasmesso attraverso goccioline di saliva, i soldati israeliani e i coloni ebrei sono duramente impegnati a sputare addosso al maggior numero di palestinesi e ai loro oggetti personali, atto purtroppo ampiamente segnalato in molte parti della Palestina occupata. I lavoratori palestinesi che lavorano in Israele sono circa 60.000. Il 23 marzo, per un lavoratore palestinese che si era sentito male sul lavoro, non è stata chiamata l'ambulanza, ma è stato cacciato in malo modo dalle autorità israeliane al checkpoint militare di Beit Sira, vicino a Ramallah, perché sospettato di avere il coronavirus, che poi risultato non avere. Quando un lavoratore sta male, gli israeliani non provvedono, ma lo cacciano dal checkpoint come un cane, come se la loro vita non avesse importanza. L'articolo 56 della Quarta Convenzione di Ginevra ovviamente non menziona gli sputi, ma impone all'occupante di garantire che siano utilizzati tutti i mezzi preventivi necessari e disponibili per combattere la diffusione di malattie contagiose ed epidemie, cosa che Israele non sta facendo. La situazione nella striscia di Gaza assediata è disastrosa. Il Ministero della Sanità di Gaza ha dichiarato che già dal 9 aprile sono esauriti tutti i kit per i test del coronavirus. Ciò significa che i numerosi abitanti di Gaza, già in quarantena, non saranno rilasciati e che i nuovi casi non verranno individuati e tantomeno guariti. Inoltre, secondo il gruppo di monitoraggio dell'ONU, OCA, nel mezzo della pandemia aumentano del 78% le aggressioni dei coloni sionisti. Sempre nello stesso articolo troviamo: i giovani palestinesi d'Italia ricordano il principe dei martiri, Abu Jihad, assassinato 32 anni fa dal Mossad. Khalil al-Wazir, conosciuto soprattutto come con il nome di Abu Jihad, fu ucciso in Tunisia il 16 aprile del 1988 da un comando del Mossad che gli sparò più di 70 volte a corto raggio. Abu Jihad fu cofondatore del partito di al-Fatah insieme con Arafat. Durante la sua vita ebbe un'enorme influenza sulle attività di resistenza palestinese contro il progetto coloniale sionista. Un interessantissimo articolo sulla Green Economy, che ci riguarda proprio tutti, ha per titolo Negev, il deserto trasformato in orto, che ha causato la crisi idrica. L'origine del greenwash israeliano. Vi spiego. Domenica 19 aprile è andata in onda su Rai 3 alle ore 12:25 la puntata di Mediterraneo dal titolo L'orto nel deserto, che ha introdotto come la tecnologia ecosostenibile sia messa al servizio di zone desertiche e come finalmente si possano far sbocciare i fiori nel deserto e orti molto produttivi. Il servizio ha mostrato come il Negev, il vastissimo deserto nel sud di Israele, zona arida e inospitale, grazie ad anni di studio e di sperimentazioni, ha potuto essere trasformato in una delle principali zone agricole del paese, Israele, con una produzione varia e molto ricca. Il servizio però non ha spiegato come tutta questa falsa ecosostenibilità porti a gravi problemi per l'ambiente, per l'acqua e altre risorse naturali, sia in termini economici e sia in termini di ecosostenibilità. Perché, come ci insegnano gli studi di ecologia sociale, non è per niente ecologico trasformare un territorio naturalmente arido in un territorio artificialmente fertile. Segue un'interessante analisi sulla devastazione delle risorse naturali che si cela dietro i fiori del deserto in Israele. Tra questi, lo sfruttamento del lago di Tiberiade e il suo conseguente calo dei livelli di acqua che ha portato ad una grave crisi idrica. Qualsiasi persona con un minimo di intelligenza e un briciolo di senso critico può capire che non è logico e né tantomeno ecosostenibile trasformare un deserto in un giardino. Eppure viene fatto passare tale messaggio, costringendo il lago Tiberiade in condizioni sempre sotto la soglia e il governo israeliano a prendere 400 milioni di metri cubi di acqua annui per gestire la richiesta idrica di coltivazioni, allevamenti intensivi e insediamenti coloniali illegali. Ovviamente i media occidentali aderiscono alla narrazione sionista basata su operazioni del greenwash sia a danno dell'ambiente sia a danno del popolo palestinese, con lo scopo di cancellare dalla memoria storica l'apparente disorganizzata civiltà palestinese che aveva consentito il vivere la vita in simbiosi con ambiente, animali e biodiversità. Il team usa Israele per ostacolare l'indagine della Corte internazionale sui crimini di guerra, in particolare di guerra israeliani. L'Organizzazione per la Cooperazione Islamica ci informa: USA ed Israele stanno entrambe affrontando l'imbarazzante spettro di un'indagine sui crimini di guerra, una sfida senza precedenti alla loro impunità. Come risposta, essi mirano a depotenziare la Corte internazionale sui crimini, impedendole preventivamente di esercitare la propria giurisdizione in quei paesi che non hanno firmato lo Statuto di Roma, quello appunto che ha fondato la Corte internazionale sui crimini. USA e Israele non fanno parte dei 123 stati membri della ICC. Tuttavia, lo Statuto di Roma consente il giudizio su stati per crimini commessi in territori dove la Corte ha giurisdizione. Lo Stato di Palestina aderì allo Statuto di Roma nel gennaio del 2015, accettando il giudizio della Corte su crimini dichiarati nella Cisgiordania e Gaza. Ma lo Stato di Palestina non può esercitare la sovranità su territori occupati militarmente da Israele. Israele rifiuta dunque la giurisdizione della Corte su quei territori. Fatou Ben Souda, procuratore generale della ICC, ha chiesto un comitato di giudici sulla materia come precondizione all'apertura dell'indagine. I sostenitori di Israele e gli alleati che si oppongono alla giurisdizione della ICC nella Cisgiordania occupata a Gaza sono l'Australia, il Brasile, l'Ungheria, l'Austria, la Germania, la Repubblica Ceca, l'Uganda e il Canada. Quest'ultimo, tra l'altro, ribadisce addirittura di non riconoscere lo Stato di Palestina e sembra minacciare il ritiro dei finanziamenti che la ICC riceve da quel paese. Quattro gruppi palestinesi per i diritti umani hanno sottolineato che la Palestina esisteva come Stato prima del mandato britannico. La piena sovranità della Palestina sui territori della Palestina mandataria fu sospesa come risultato dell'occupazione militare iniziata con l'occupazione britannica. La Palestina era stata trattata come una nazione indipendente già nel Trattato di Versailles del 1919, a seguito del disfacimento dell'Impero Ottomano. Passiamo ora ad una notizia sul mondo ebraico. La nostra missione è quella di informare il mondo che lo Stato di Israele non rappresenta gli ebrei nell'ebraismo. Questo è quanto ha dichiarato il rabbino Yaakov Shapiro, fervente repubblicano e dirigente del gruppo ebraico statunitense True Torah, la vera Torah. Si dà seguito all'articolo di Mirko Pelet sugli ebrei aredi, con due articoli sugli ebrei ortodossi in Israele e negli USA. Mirko Pelet è atteso in Italia, tra l'altro, a fine pandemia. Quando Trump annunciò il trasferimento dell'ambasciata USA a Gerusalemme, presunta capitale del popolo ebraico, Shapiro rispose: «La nazione ebraica non ha una capitale. Una capitale è un concetto politico. Noi non siamo uno Stato, noi siamo un popolo. una nazione che si basa sull'ebraismo della Torah. Gerusalemme è un luogo santo, ma ciò non ne fa la nostra capitale. È un concetto sionista quello che gli ebrei non siano una religione, ma un'entità nazionale razziale. L'articolo continua con le prevedibili contestazioni da parte di altri rabbini e non solo. Ma è con questa dichiarazione, che facciamo anche nostra, che finisce la nostra rassegna stampa di oggi. Facciamo ora un breve stacco musicale con Amal Hayati dal vivo all'Olimpia. Di Buongiorno Palestina con Marisa, che ci parlerà del libro di Rami Palawi e di Alessandra Ravizza dal titolo Il maestro di Gaza. Buongiorno. Sì, volevo parlare di questo libro perché l'ho trovato particolarmente interessante a livello delle informazioni e della documentazione riguardante la storia di Gaza, ma anche è un libro particolarmente toccante perché la testimonianza del maestro Rami, che così bene è stata raccolta da Alessandra Ravizza, è un racconto che arriva dritto al cuore di quella prigione a cielo aperto che è Gaza. Prima di iniziare la recensione vorrei parlare di Alessandra, che è l'autrice del libro e anche cantante genovese, che porta avanti da anni un percorso di ricerca legato al canto e alle lingue. E il suo percorso artistico si è mosso e si muove tra le lingue, le sonorità, le melodie dei paesi che si affacciano sulle rive del Mediterraneo, e così facendo ha tradotto diverse canzoni italiane in lingua araba, facendole dialogare con i testi delle canzoni dei più importanti parolieri e cantanti del mondo arabo. Ma Alessandra e Rami si conoscevano o non si erano mai, diciamo, visti, mai conosciuti, mai, non si erano, non avevano mai avuto una corrispondenza? Sì, mi dai l'opportunità di raccontare come è avvenuto l'incontro tra Alessandra e Rami, che sembra un incontro casuale, ma forse non è un caso, visto il percorso di cui parlavo prima che ha fatto Alessandra in campo musicale. È successo che nel 2014 Alessandra legge sul quotidiano La Repubblica la lettera di condoglianze di Rami Palawi per la famiglia di Simone Camilli, il fotoreporter e videomaker italiano morto a nord della striscia di Gaza. Le sue parole la commuovono a tal punto che decide di mettersi in contatto con lui tramite Facebook. E loro non si sono né allora né ora ancora non si sono conosciuti fisicamente. Inizia quindi tramite Facebook questo scambio di email che prosegue nel tempo, attraverso il quale a Rami viene l'idea di domandare ad Alessandra se può musicare delle sue poesie. E poi da lì invece nasce un'ulteriore idea, quella di scrivere un libro sulla sua esperienza di maestro di Gaza. E così si avvia una fitta corrispondenza e il libro esce nel giugno del 2018. Sì. La narrazione che troviamo in questo libro ci porta tra i terribili sacrifici richiesti a un popolo che vive in costante stato di assedio e con incredibile umanità porta a chi lo legge, al lettore, a stare accanto ai suoi abitanti, a stare vicino a Rami che, nato un anno dopo la prima intifada, si trova ad essere spettatore innocente e inconsapevole, poi a comprendere cosa significa vivere in una Gaza sotto brutale occupazione e poi a prendere sempre più coscienza della situazione che condizionerà la costruzione del suo futuro. E la figura del maestro di Gaza è una figura esemplare perché Rawi, nel suo ruolo di educatore, sente di avere il compito, non sempre facile, ma vissuto come un dovere, di seminare il cambiamento nel cuore dei ragazzi, di trasmettere valori di umanità e tolleranza per promuovere quella convivenza pacifica tra popoli e persone. Si fa quindi portavoce di un futuro di pace in una realtà che immiserisce invece pensieri e tende a generare il sentimento di odio. Ecco, in questa realtà lui cerca di scavare un sentiero in cui parole che, come lui stesso dice, ripete in continuazione, come tolleranza, condivisione di culture, amore, pace, che possono sembrare in quel contesto essere delle eresie, prendono invece il senso di un percorso che crea uno spazio e un luogo, direi, di memoria nella mente dei suoi alunni che impedisce e impedisca la negazione della loro storia. C'è stata anche l'abilità dell'autrice di Alessandra Ravizza nella ricerca delle fonti che permettono, con citazioni di libri, articoli tratti da testate giornalistiche internazionali, report di Save the Children, nonché dichiarazioni del Centro per i diritti umani di Al-Mezan di Gaza, permettono, dicevano, di fornire il contesto delle dinamiche culturali, delle politiche e di discussione sui vari argomenti che di volta in volta vengono trattati nella narrazione di Rami. Mi ha particolarmente toccato nella sua testimonianza ciò che lui racconta sull'operazione di margine protettivo del 2014, di cui l'autrice riesce in maniera magistrale, in quasi 4 pagine, a darci un resoconto, quasi fossimo in diretta, di quei giorni e che lascia sconvolto chi lo legge. In quella offensiva, Rami, perse 3 sorelle, un fratello, 2 cugini di 12 e 9 anni. Eh È un evento doloroso. sì, che ha segnato, come altre vicende nella sua vita, la sua coscienza e la sua consapevolezza del suo vissuto. Vorrei finire questa breve recensione leggendo qualche passo del capitolo Gli studenti di Rami. Ne ho scelti due perché lui ne parla abbondantemente. Allora, lui insegna. Che cosa insegnava Rami? In Sì. quale livello scolastico e che materia soprattutto? Sì, allora lui insegnava nelle medie inferiori ed era insegnante di storia in base al programma stabilito dall'Autorità Nazionale Palestinese. Vorrei per finire leggere qualche passo del libro dal capitolo Gli studenti di Rami e poi dal capitolo Cosa sognano gli studenti Gazawi. Allora, il primo passo riguarda gli studenti di Rami. Ahmed Karam ha 14 anni e vive nel campo profughi di Al-Suirat, nella zona centrale della striscia. L'operazione militare del 2014 uccise il suo amato maestro Farid, che lo sosteneva nella sua passione per il canto e per la poesia. E queste sono le sue parole: "In questa guerra non ho perso nessuno della mia famiglia e sono grato per questo, ma ho perso colui che consideravo come un padre, il mio maestro Farid Ahmed, che mi ha sempre sostenuto nello sviluppo delle mie passioni e dei miei talenti. È stato ucciso nella sua casa. Quando l'ho saputo ero sconvolto e non riuscivo a parlare né a piangere. Spero di riuscire a piangere. È sempre nei miei pensieri. Lo immagino insegnare ai nostri studenti e ricordo quanto fosse buono e gentile con noi. Era un modello per me. Non capisco perché l'abbiano ucciso così." E poi c'è un altro bambino, Darwish Abusetta, un bambino di 12 anni, che ha perso 10 kg durante il conflitto del 2014 dopo aver visto assassinare nell'esplosione il suo amico Youssef. Le sue parole sono queste: "Non posso descrivere la scena. Il mio amico era fatto a pezzi, sono quasi svenuto. C'erano così tante braccia e gambe ovunque sulla strada. Ero scioccato e incapace di muovermi o di fare qualsiasi cosa. Posso solo pensare al sorriso di Youssef, al suo ciao, quando mi passò vicino pochi minuti prima di essere ucciso. Youssef è andato in paradiso, lo so. Non riesco a dormire né a mangiare. La mia famiglia sta cercando di aiutarmi, ma non riesco a dimenticare il mio amico. Gli sto scrivendo molte lettere, so che le leggerà in qualche modo. Il fatto che sia morto mi causa molto dolore. Il mio cuore soffre, così come la testa e i piedi, è difficile respirare. Ho scelto questi due bambini, ce ne sono tanti altri, e questo in particolare perché rende evidente una cosa, che i bambini di Gaza, gli studenti quindi di Rami, sono bambini che sono stati feriti non solo fisicamente, ma feriti anche psicologicamente, hanno perso i loro cari, i loro amici, hanno subito traumi. Hanno continuamente incubi e paure e avrebbero bisogno di un sostegno psicologico che, come anche Rami ammette, non sempre viene dato. Non è possibile trovare né personale né strutture adeguate. E poi dicevo, per concludere, dal capitolo Cosa sognano gli studenti Gazawi, il maestro dice: "Molti di loro, ricordando i bombardamenti israeliani e di come si fossero sentiti impotenti di fronte al ferimento o alla morte dei loro parenti, dei loro amici, hanno affermato che vorrebbero diventare medici per poterli aiutare in futuro. Altri invece sognano di diventare ingegneri per poter ricostruire le case, le scuole e le strade distrutte dalla guerra, ma anche stadi e grandi parchi verdi in cui poter giocare. Altri desiderano diventare insegnanti per poter trasmettere messaggi di cambiamento. Alcuni invece sognano di diventare avvocati per difendere gli oppressi del mondo. Altri invece sognano di diventare artisti, poeti, pittori, per poter elaborare e raccontare ciò che hanno vissuto nella loro infanzia. Altri vogliono diventare giornalisti per scrivere della sofferenza del loro popolo. Altri sognano di diventare calciatori e di poter giocare un giorno nelle squadre internazionali che vedono in televisione. Altri ancora sognano di diventare inventori, per mettersi al servizio del loro paese e per inventare ciò di cui ci sarebbe bisogno, ma che nessuno ha ancora avuto il coraggio di inventare." E poi conclude così Rami: "Tutti gli studenti di cui ho parlato vogliono resistere all'occupazione, ma non nascondo che ci sono anche bambini che vogliono diventare martiri perché credono nella resistenza armata." Beh, speriamo quindi che i giovani e gli studenti del maestro di Gaza possano realizzare i loro sogni nella loro patria, in una patria libera, non più asservita a un esercito militare. E Certo. questo facciamo un breve stacco musicale e poi riprendiamo con una nuova recensione. Ascoltiamo ora il coro dei bambini siriani realizzato dall'UNICEF, dal titolo I nostri cuori battono ancora. دمار ونار جرح كبير بالصوت العالي بدي اقول بس الصوت صغير يمكن نحن اولاد صغار بس صرختنا من القلب بدنا نمحي كل الخوف ونكون التغيير بأعلى صوت بدي اقول بالغني كل شي معقول حدا يسمع حدا شوف طفولتنا بدنا بالصوت الواحد Riprendiamo la trasmissione Buongiorno Palestina con la recensione di un altro libro che ci farà Marisa. Si tratta del libro di Chiara Cruciati e Michele Giorgio. 50 anni dopo, 1967-2017, i territori palestinesi occupati e il fallimento della soluzione dei due stati. Questo libro è stato dedicato dagli autori a Stefano Chiarini, Vittorio Arrigoni e Maurizio Musolino, che sono morti per la causa palestinese. E volevo dire due parole, perché su Vittorio Arrigoni penso che tutti lo conoscono. E volevo parlare di Stefano Chiarini e Maurizio Musolino, perché sono due giornalisti che hanno costituito il comitato, soprattutto Stefano Chiarini è stato l'ideatore, il comitato per non dimenticare Sabra e Shatila, che dal 2000 ogni anno, e io sono andata quest'anno con questo comitato per il 37° anniversario del massacro di Sabra Shatila, che come ricordi è avvenuto il 16-18 settembre 1982, che appunto questo comitato porta delegazioni per commemorare questo massacro, in cui si stima ci sono stati fino a 3.500 morti. E quindi si reca in Libano per ricordare questo evento e poi soprattutto portare solidarietà ai rifugiati palestinesi che vivono nei campi profughi, che infatti siamo andati poi a visitare. Ho il libro di Chiara Cruciati e Michele Giorgio, che come ricordo sono due giornalisti. Michele Giorgio è da anni che vive in Medio Oriente ed è corrispondente del Manifesto, così come la Chiara Cruciati, che scrive sul Manifesto, scrive di Medio Oriente in generale ed è caporedattrice dell'agenzia di informazioni Nena News. Allora, questo libro fornisce una serie di fatti e di elementi che tentano e tendano a rispondere a una domanda. Cioè, cosa è successo dal 1967 con la guerra dei 6 giorni che ha messo sotto controllo israeliano il resto della Palestina storica? Ecco, gli autori, analizzando gli ultimi 50 anni, vanno alle radici del conflitto israelo-palestinese e alle sue attuali conseguenze. Partendo dalla Naxa, cioè la caduta del 1967, fino alla prima intifada del 1987, dagli accordi di Oslo 93-95 alla seconda intifada del 2000, alle politiche israeliane tra militarismo e pacifismo, ecco, viene fuori che rimane evidente un conflitto, nonostante tutte le risoluzioni internazionali e tutti i piani di pace che si trascina da decenni e i cui nodi rimangono irrisolti. Certo. L'espansione della colonizzazione israeliana nei territori occupati, le politiche economiche e monetarie, la concorrenza sleale hanno impedito uno sviluppo concreto e reale del popolo palestinese e reso utopica la creazione dello Stato di Palestina come un'entità territoriale omogenea e sovrana, ponendo fine quindi alla soluzione dei due Stati. Il fallimento dei negoziati e degli accordi, la mancata applicazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite, la costruzione infine del muro, l'incremento dell'industria militare israeliana dimostrano, secondo gli autori, la scelta della diplomazia mondiale di mantenere lo status quo. Perché cosa si ravvisa anche leggendo nei vari capitoli del libro? Che l'autorità nazionale palestinese è un organo che amministra senza Stato, governa senza territorio e a cui Israele ha appaltato l'occupazione, facendone ostacolo al dissenso. E quindi questo mix di annessione e isolamento ha innalzato la povertà, generando mancanza strutturale di infrastrutture e di servizi e depauperato il settore commerciale, annullato quello turistico. Una realtà che aggrava lo stato di apartheid e discriminazione tra israeliani e palestinesi, con l'esistenza di un solo Stato non democratico che nega il diritto alla libertà e all'autodeterminazione nel silenzio della comunità internazionale. E per ultimo vorrei proprio prendere le parole degli autori che proprio nell'ultima pagina, nell'ultimo capitolo delle conclusioni, dicono e scrivono questo. Israele è nella fase finale della realizzazione dello status quo immaginato dai padri fondatori, uno Stato unico dal mare fino al fiume Giordano, dove resistono sacche minime di territorio, ma il controllo totale è in mano a esercito e governo israeliano. Una situazione potenzialmente esplosiva. La massima ambizione del popolo palestinese, cioè uno Stato unico democratico che garantisca il ritorno dei rifugiati dalla diaspora, in cui ogni cittadino goda di uguali diritti e doveri, a prescindere dalla propria confessione o etnia, si è traslata in un incubo peggiore. Non due Stati per il quale rinunciare con dolore ai territori del 48 e va bene, ma uno Stato solo, diseguale e non democratico, in cui le politiche di discriminazione si fanno legge ed entrano nel pericoloso e umiliante territorio dell'apartheid di Stato. Uno Stato che annette la terra, ma non i suoi abitanti, in cui una parte dei residenti effettivi, oltre 5 milioni di persone, su un totale di 13 milioni tra Israele e territori occupati, non è cittadino. E infine, per ultimo, impossibile non vedere in una simile situazione le radici di un conflitto che riesploderà con violenza nel silenzio assenso della comunità internazionale occidentale e del mondo arabo. La Palestina è scomparsa solo dalle cronache, ma il popolo palestinese esiste ancora. E con questo si conclude il libro che raccomando di leggere perché è strutturato in maniera molto chiara, anche se approfondita e appunto come dicevo prima partendo dalla Naxa arriva fino ai nostri giorni con tutta una serie di documentazioni e studi e approfondimenti rilevanti. Vi ricordiamo che potrete trovare tutta la rassegna stampa per esteso sul sito di Amicizia Italo-Palestinese all'indirizzo www.amicizia-italo-palestinese.it. I riferimenti ai libri recensiti oggi li troverete sulla pagina di Buongiorno Palestina nel podcast di Radio Wombat. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle ore 18. Inshallah! خلولي بلاد طردوا الأجداد صفقة جو صفقة جو صفقة جو جو جو فلسطين عربية حرة غبية القدس إلنا يا أحرار قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال صفقة جو صفقة جو صفقة جو جو جو قالوا لنا سلام آه يا سلام لا صفقة بدنا ولا قاومنا دفعنا بنرجعها صفقة جو صفقة جو صفقة جو جو جو قالوا لنا قانون دولي يا قانون العدالي شفنا ولا سلام لا لا لا لا لا لا لا لا صفقة جو صفقة جو صفقة جو جو جو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اطلع من أرضي اطلع صفقة جو صفقة جو صفقة جو جو جو فلسطين عربية